Buonasera, proprio lui, no, mi senti? Sì. Leone, lei ti rivela, sto provando se funziona questa cosa. Leone? Campa, mi sentito, vai. Mi sentito cordialità. Gianni, dopo di Roma, va. Di nuovo, non ti avevo mai sentito, Leone. Ehi, non sto attaccando più. Oggi ho provato, adesso mi vedo se funzionava qualcosa, ancora. Come non funziona? Santiago numero di un 5 e qua stai arrivando a Sassari. Sassari? Stai arrivando a voglia, va bene. Ma non lo stavamo ancora riaccendendo? No, tutto aspetto, io adesso ho attaccato l'apparecchio, stavo provando, sono antenna, funzionava ancora. Ciucucciù. Comunque ce l'ha anche lì, aspetta, ritintina, va, no? Ciao Leone, ciao tu. Ciao che Gianni. Ciao tu. Come va? Dopo tanto, ben rientrato. Basta, ti ascolto a te, va. Io stavo provando se funzionava ancora. E a me come mi ascolti di Haiti? Sei bello, forte tu, senti a volte stai arrivando nella mia zona. Kappa. Senti a volte. Kappa. A tempo, hombres. Chi è? Mia San Vio, me. A tempo, hombres. Sì. Mamma mia, nominato da me, buon animale, mi. Salve, sto bene. Ciao a tutti, buonasera Santoni, ben sentiti. Tutto bene, ciò che va bene. Ciò che va male cerchiamo di sistemarlo, cambio. Vabbè, linea di massima. Vabbè, questi parametri stanno distanti. Questa settimana, come vuole il mare, dobbiamo uscire, gamba. Per me lo stanno. Se non so quanto è già agitato, parecchio. Più di 10 giorni male, messo male. Vabbè Marico, quando avete buttato avete preso. Sì, ma così già l'abbiamo preso. Niente di spettacolare. No, no. Già sarà lì. Sì, sarà Gaglio che ho buttato. Adesso dobbiamo buttare un bel palamito, per un attimo abbiamo delle coordinate, questo fuori del pescatore. E abbiamo detto una mezza società, adesso come muore il mare, lui ha messo la barca, io sto mettendo il motore. E vediamo un po' se come dice lui. Ci sono alcuni miglia da percorrere. E andiamo a vedere come ti sembra il mercato, visto che il mercato te lo compri. Poi buttiamo il palamito e della stessa cosa. E quella ha ragione, ho detto, io fiducia, visto che tu sei pescatore da bambino, vediamo un po' se è così, se non sono solo parole. Ma noi facciamo altre coordinate, uno di Alghero, così, 33 kg di coso, di, come si chiamano, ma quel pesce da fondale. Vabbè, quando viene te lo dico, ha preso questa con io con la barca. No, lui ha parlato di orate. Ora ha detto, ma almeno ci può essere qualche sale in mezzo, ma è tutto orate. Metto tu con me e poi mi dà la risposta, a vedere se sono bugiato. Metto io purtroppo non posso andare perché nel comune non ce l'ho più. C'ho questa barca, il motore si è rotto e io sono riuscito a rimediare il motore, adesso lo dobbiamo provare. E se va bene lo acquistiamo. Pizzone si chiamano, adesso non mi veniva. Le pizzone, no, è come se volesse meno, ma con un pesce, sapete. Minimo che prendeva era 2 kg, 1,5 kg di pesce. Mi raccomando, il motore guardatelo bene prima di uscire, che è importante. Infatti prima dobbiamo provare, vedere come va, se il motore va bene si può comprare, perché il prezzo è buono. Se non sono pieno. Poi per dire dove faccio volontariato, ne avevamo uno Johnson che ci avevano venduto 500 euro, no 500 mila lire, allora c'erano le lire, aveva 10 anni, con il libretto pure tutto quanto, ce l'ha venuto questa vedova, era morto il marito e non lo stava più usando, il gommone e il motore. Il motore c'aveva 10 anni, era un Johnson, ma andava che cosa amara, eh. L'abbiamo fatto revisionare, cambiato le candele e funzionava benissimo. Che fine ha fatto? L'abbiamo rivenduto perché Portoferro stavo facendo salvamento a mare e per dispetto lasciavamo il motore e il gommone giù in spiaggia, lo prendo domani mattina, ci hanno tagliato proprio da dove si prese il gommone, cioè il presente, i maneggi. Attorno ai maneggi ci hanno tagliato e il gommone l'abbiamo buttato via e il motore ci abbiamo venduto. Qua ti fa del bene il cazzo rispetto, ma lo vedi. Dimmi caro, è bello, è bello. Allora, ti ho le coordinate di casa mia ieri. Cappa, dimmi cosa si faccio fare lì. C'ha i cancelli, quello lì. Lì vicino da sistemare. Pagata. Chi altro c'è in frequenza? Leone da Italy. Buonasera a tutti i componenti del 7351, qua Leoncino. Ciao Leoncino, a me c'è anche il Leone adesso, voi siete in due, Leoncino e Leone. Buonasera, il compagno di Leoncino da Ino, del Leone da Ittiri, di Pomponio, poi chi c'era? Guardate, me lo sono dimenticato. L'anima lunga. Mi sono dimenticato il migliore, dai. Vabbè, non mi stava prendendo il nome. Savino, avanti. Papà, saluto il Leoncino. Salutiamo anche a Leone, la IT, sperando che mi ascolti qua. Che ho un attimino, una base magnetica, capa. Ehi, ciao papà, ben ascoltato. Non è per Paolo, è anima lunga. Ah, anima lunga, pensavo che fosse il 50 di bombolo. Che 50? Ah, si dice. Che no? Finché no, il 50 sarebbe il marito, eh. Vabbè, pensavo che fosse il padre di bombolo. Quell'amico tuo, quello che siamo andati insieme in ufficio? Sì. faccio ridare. La gente sembra lo stesso, e dove sei? Aspetta, c'è uno che sta chiamando basso, non lo senti? Vuole entrare se lo senti, io non lo so. Avanti che vuole entrare su canale 5, chi è? Chi è che chiama? Quale binario 5? Canaletta 5, avanti chi chiama, con la buonasera. Io l'ho sentito adesso quando ho guardato. Chi è che stava chiamando su 5? Non ho capito, chi sei? Di altre cazzaggia mi pare. Ripeti chi sei. Avanti chi vuole entrare? Sei un po' bassino, vieni avanti, una buonasera, se non siamo tirati fuori, cambio. Magnetica, va, non entra, buonasera, raga. Entro Gigino, binario Gambia. Barrato agricolo. Senti chi da mia, barrato agricolo. La vernice marina. Vai ne scenda. Attento, Flavio, Briatore, ordine la data da Gregoracci. Senta, la scelta non è stata in Luca. Ecco la che mi hanno detto, che si è rimestato in una sonda. Attenta, Carnafracci, cambio. Ma solo la tua sonda. Attenzione, riccioli d'oro. Cambio, vamos. faccio le cuffie e mi innesca un po' l'ocarina. L'ocarina lo... Sentita mia. Così no, la diavolata passiccia, però sono dico leggermente più alto, ma di prima la bomba. Però che non sarà è forte, non è che siete di non sirvi, no? Però come sarà più forte, boh. Però ti volevo dire, ma non ce l'hai più quel portatile, salvi? Quel portatile non ce l'hai più, quello rosso, anche se sicuro lì è. Quello crema. Tu hai di portatile, c'è uno venduto e l'altro ce l'ho qua. Perché te lo trovo più buono, dai. No, quello più vecchio ho tenuto, quello nuovo è scatto, l'ho dato allo stesso che gli ho dato la soffetta. Ma mi dirà, Gianni c'ha il nuovo, nuovo, nuovo. Come? C'ha Gianni, nuovo, nuovo, l'apparecchio. Io lo so. Bravo, adesso faccio sentire un barracco, spero la gente, no? Non te ne sbagli, neanche se lo paghi. Ma dove stai vendendo Gianni? No. E anche in concessione quello. Almeno l'apparecchio. Poi stavo cercando l'altro giorno su EB l'aveva 34S, ma non l'ho già avuto. Anzi, era 34, senza S. Non riesco a trovarlo. Se la trovo a pochi soldi me lo prendo. Così, ecco c'è la concessione. Non riesco a fargli fare, a fargli fare di più watt. Con Giulia. Io se vedo sto piantando, sei dimenticato. Ma si trova questa elicottero qua? Dove dei pedali? Ma telecomandato? Sono gli elicotteri telecomandati, infatti hai telecomandati, no? Fuori di testa. Luca, via. Oh, via. Senti, ma la chiedo di... Vanno avanti, cambio. Dai, di gigazzi, chi qua? Intec B 3104S, stazione pace, cambio. Parlava del cuffa, un po' cuffa, va bene, dai. Microfono, di quei microfoni con il cambio dei canali dal microfono. Stazione pace, c'ha la colonnina frontale con tutti quanti i tastini, cose varie, rimane tutto verde, illuminato. Non l'ho mai visto, la prima volta che lo vedevo. Degli anni, non so di che anni, non c'è un lato, non è stato mai usato questa macchina. È tutto quanto Virginia, l'originale. E su internet ovviamente si possono fare un bel di modifiche, si guarda parecchio. Ascolta, è un po' d'alternata sotto il fondo. Lo so, l'ho sentito anche nell'apparecchio mio. Si sente nell'apparecchio mio. C'è diventato reincorporato, capito? È un bel di anni fermo. C'è qualche lavoretto da fare, però c'è una riflessione allucinante, per esempio se sto sentendo uno più più, aspetta un attimino. Poi c'è il pomello del VAT, però non so se agisce. C'è un pomello che si chiama Big Power, non so se regola qualcosa. Forse 9,50, fa un passaggio, eh? Allora? Adesso non mi ricordo, se ne avevo messo quella roba per uscire, per un servizio nuovo. vabbè. E niente, già ero un invito, no? Adesso guarda, ma la gatta che ci vici dato. Ho un gatto che avevo due motorini fuori parcheggiati uguali, due zip, no? Di cui uno nero e uno bianco. Stava piovendo, come ricordo questi particolari qua. Vabbè, tanto lo lascio fuori, tanto non me la ruba nessuno, perché se no la stava rubando qualche mese fa una bianca. La favola. Dopo un po' mi rendo conto che mancava lo zip bianco. Cazzo, mamma mia, mi stava sangue a testa, mamma mia. Poi dopo un po', la mia mia, vedo questi due ragazzini in moto, con questo zip rosso con fascella. C'erano fascella e un casco, erano su sotto un casco. Passato sopra il, diciamo, il portaoggetti dietro, li ho bloccati, gli ho detto datemi qualcosa, se avete visto chi mi ha rubato la moto, datemi qualcosa. Ho detto qua, ho detto, quando è spazio cosa c'hai? E ho detto, un carburatore questo qua, che vuoto del vecchio. Poi mi hanno fatto la risatina, come dire, è stato non tratto niente di che. Ho detto, dammi l'orologio almeno, se ho visto chi mi ha preso la moto. Così mi riporti molto avanti per l'orologio. E non me li hanno dato. E poi lì, dopo un po', c'era questa macchina strana parcheggiata vicino a casa, con questo carrello. Come si dice? Prendo, dopo un po', torno indietro, così quello fermati quasi a metà strada di vicino a casa, prende così a casa. Cazzo, non mi vedo questo qua, mi stava rubando anche un zip nero. Cazzo, mi ha bloccato, ho detto, butto scemo, ma stai facendo? E mi hanno rubato anche uno a me, di zip. Ci mi hanno rubato uno bianco, ci l'ho detto questo qua. Mi hanno rubato anche questo qua. E non so, dammi la moto, dammi, o ti faccio un gabbo. E poi magari faccio sonno. La ferrugine di hanno messo a Barra Agricola invece che la ferrite. La ferrugine. Senti, no. Senti. No. Segna, sì. Ma bisogno già, bubu. Comunque a parte gli scherzi. Sono ragazzini che rubano la moto già. Sono ragazzini. Mi sa che io già la uso. Perché. Sono ragazzini, ma sono le figlie un po' grande, prima tutto sicodipendenti che andavano a rubare motorini, aprire macchine, che ballacche. Cioè stereo non le rubavano più a mia moglie. Hanno aperto la macchina e hanno rubato se eravamo là, c'era a casa dei amici e è accaduto. Ma non ti vostri magari? No, ma lui vicino a casa. Zona. Ci sei tu lì. Comunque, vabbè, cosa ti stavo dicendo? Mi hai staccato il frontalino già, eh? Il frontalino è staccato, solo che l'aveva messo nello sportello laterale. Hanno visto il frontalino e dice adesso ce ne freghiamo anche la trompetta. Ma tu l'hai staccato? No, piegato lo sportello. Bastardi, cazzo. E cosa fai? Non li trovi, ti comprometti, è un casino. Ehi, ma deve essere zitto, io mi sono informato a gente che conosce di questa gente di fure e cose. Mi detto che Stero non è stato più pigliato. Ehi, ma sono sempre ragazzinetti già che rubano adesso. Perché la moto bianca che me l'ha rubata a me, l'abito così più bianco, un ragazzinetto. Cioè, ti cazzo ha fatto, proprio fratello di secondi me l'ha rubata. Se mettevo il blocco un cazzo si arrigava a chi l'aveva avuto, ui ui ui, e ora facevo una mazzetta in mano, pensa a due. Ma cosa ti ero un bel trovato? No, io dopo anni, quasi due, dopo quasi, vabbè, oddio anni, dopo quasi un anno, sì, infatti poi ci erano altri pezzi, e cosa facciamo qua? Non so, una bomba, denuncia, non ha detto, ti faccio di cazzo, no? Non stava lavorando come al comune, hai capito? Una donna. È una donna. La di punta del servizio di Pizzi. Quindi mi hanno venduti? Se per l'incitazione. Ma infatti, c'è caso che è passato. Sono voluta bene. E poi, l'altra volta lo stesso, ma perché me lo fai il conto, vabbè. Poi l'altra volta lo stesso, qualche giorno tra la veloce, cioè c'ha il figlio uguale, no? Bianca. Ci ha fatto la domanda, ma allucinante, entra, qua ti dico già entrato, due secondi, così male fuori, l'uscito c'è anche un mozzolino. Ma se non sono rimasto lì, se no lui sa come me ne aveva linguato. Poi è trovato un marito con come si chiama? Con la rotolia. Cioè ha preso la mamma per vedere il figlio, senza niente, ha fatto la salsa, ha messo il casco e poi ha preso. Si è preso la moto. E si è controllato. Guarda, mamma mia. Avrei grido. No, veramente già, figlia. Fatta la mamma, mi guarda la chiave, tanta. Vabbè, c'è la chiave sua. Avanti, bararina. Come? Aspetta. Guarda, però non so, adesso. dentro la scena del letto, oppure è chiusa, boh, aspetta, vado in bagno. La prossima è finita, ciao. Ciao, ma lui va a città qui di finita, no? Faccia quel porco di barra agricola. Yeah. dopo, uno dentro e tre, dove siamo passati. Poi sei stato a commutare con l'altra, aspetta, vai. No, ma guardare, però invece i quattro passi ora, prova a vedere, segnalo quante, cambio cambio. 9.30, 9.40, non mi vado. Riccioli d'oro. Come non sa quello che hai fatto? Ma cosa hai toccato? Si è staccata la vettina dalla ferrizia, maledizione, dalla bobina. Si è staccata la vettina dalla ferrizia? Quella marroncina, quei cosi marroncini? La vettina si è staccata. Vabbè, rimettila se si è staccata. Staccata la vettina, si è staccata la vettina che c'è ancora le bobine marroni. Che cazzo già ne ho di quelle io? A voglia. Direi che ne prendi una, non ci vuole molto. Ma per arrivare a metterla bisogna risaldare tutta la griglietta in ferro che c'è saldata. Tutta. Ah, si è calmato, Sì, cazzo. C'è una griglietta, ci sono i buchi e c'è la griglietta, bisogna lavare tutti i punti di saldatura e lavare quel coperchio. Ho capito. Ma basta, sono 100 milioni ci sono. Ma non è che hai spaccato la cosa della media frequenza, no? Posso dire di spaccare quella del VAT. Perché della media frequenza? Ah, aspetta, lì c'è i cosi diversi da questo qua. È vero, c'è la biglietta, c'è le cose trasmissione. Già è vero, già. Ascolta a me, non è che ti sia fatto vedere, spaccare tutto quella metti lì e tanto le sciappizzi. Provo a cadere spaccata e poi li mettiamo l'aereo, c'è bisogno di togliere la griglia che c'è intorno. Li mettiamo in nucleo servito e gli facciamo la regolazione dei watt. Facciamo un po' più i watt, facciamo con 0 watt, proprio 100 milliwatt, perché c'è il passo in 15 watt e proprio si sta muovendo a parola 0, 100 milliwatt. Quello stesso avevo. No, per 30 lo vuoi a picchino per 40. Ma infatti non c'è 100 milliwatt, ci sono. Allora ci basterebbe, noi abbiamo bisogno proprio della potenza per sentirci. E sempre quella lì, però vedi, da 9,30 a quando arriva la 9,60, allora c'è la differenza. Ma adesso sono a 0 di watt io. Mi senti? Sì, ti sento. Adesso proprio 0, non si può con lo anche così è qua, il segnale 1 sta segnando quando schiaccio la porta. Ma come senti tu? Sì, che lo sento, ci avevo saldato in mano, aspetta. Ma come male mi intendi, va? Sono quasi 0, 0, 0, 0. Una benzina in alta, vedo. pollo, petti di pollo. Ma, petti di pollo. Ali di pollo, cosci di pollo. Anche il fusillo, tutti sono fusilli, così è di pollo. Fusi. Ah, fusi di pollo, no? Sono le zampe, le cuce già, fusilli di pollo. I fusilli sono la pasta, fusi. Ma fusi si chiama? Fusilli la pasta. Non ci sono, mi ricordo che c'erano i fusilli di pollo. Le praticamente sono delle cuce piccoline, di pollo. E la cuce sotto il petto fa le lata. No, non fa petto, niente, fusilli. Sono le cuce, basta. Piccoline sono. Senza il pezzo, ti ho detto. Ah, eh? Come si chiamano? Fusilli. Unia cosa già, unia... Non lo consumo, unia... ma se non mi ricordo il pesce. Unia... Cosa, non ho capito? Una gamba. C'è la vita in un fiume. Ma cosa c'è? C'è qualche programma documentario? Ci do Cambogino Junior, questo è per i bambini. Mi domani ci cari, cambio. Non so che ascoltavo bene anche prima, forse quelli sono troppo vicini magari. Ti ascolto forte e chiasso qua. Sono un piccolo amplificato da dentro. No, si sente che sta spingendo. Ma è dove lo stesso abbattino? Sul continente? Positivo è cavallogero, no, ne ha tolto il suo scippatore di calore che c'ha dietro e ha messo un altro e sicuramente è qualche amplificatore dentro, capito? C'è perché entrano sei fili dentro, dopo quello dove c'era lo scippatore dall'interno, fine di corrente con portafusibile, capisci? Condensatori tipo bobine grosse ci sono dentro l'apparato e via. Comunque dai 15 watt al massimo che dava questo baracchino a 70 watt, dai poche parole, 70 watt di cambio. Come ci ha messo a fatto lui più o meno? Allora, ne ha spedito tre Palmirio, il 48 di quello fatto a Napoli, che non era quello che avevo fatto ascoltare, lo devi ascoltare adesso, quello lì gli ha aggiustato l'eco, gli ha fatto un bel lavoro a frontalino, tutto quello illuminato, schiacci che blu, puoi diventare arancione, ti cambia colore, bello, bello, quando sei volato ti cambia i colori di mascherina. Poi ha mandato questo brutto che gli avevo dato io, che era di Salvatore Maestrale, questo, e più un'ara 48, per quest'ara 48 gli ha preso 250 euro mi sembra. Comunque siamo in giro di 2 settimane, neanche pure, neanche 2 settimane lui ce l'aveva, devo mettere tutte e tre qua. Un attimino, allora. Questo qua è completo, praticamente non mi manca niente, c'è il calice, gli altri, c'è la di per 200 euro, ha un 48, non ha niente, 250, spiegami il... Non lo so io, non so che dirti, a me metto così in Palmieri, così ti sto leggendo, ha fatto un 48 a un collega suo, gliel'ha mandato e gliel'ha fatto, io non so che dite, sto facendo più un oratore, c'è tutto dentro. Non so come gliel'ha fatto. Dico, fai capire anche tu, che un 48 non ha niente, né canali, né nulla, né bip. Cioè, 50 euro là ci perde lui, scusa. Perché su questo qua gli deve mettere la scheda e basta, e fargli la modificata per farlo uscire un po' da effetti. Poi vabbè, la modifica i watt, ma poi siamo stati nel lavoro. Lui è un tuo, sono 400.000 franchi. Lui. No, forse non hai capito, tu quando aprendo vedi, rendi conto cosa ha fatto, questo lineare che c'è dietro, che è un lineare, c'è un lineare dentro lo scippatore, il scippatore è cambiato una cosa grossa, c'è al posto del suo piccolino, e dentro questo scippatore di calore c'è un lineare dentro. Ma comunque, già tu sei d'accordo con me, perché se ti prendo un 48, dicevo la scheda bip, la scheda, tutto quello del lavoro che c'è da fare, da metterlo di watt, c'è 50 euro di differenza, capito? Ma lasciamo parlare del dissipatore, lui, lasciamo perdere quello, quello sicuramente mai dentro non portava vetro, allora l'ha messo fuori, la forza del dissipatore che c'era prima, sono d'accordo con te, ma il lavoro è di meno, è molto di meno, 50 euro di differenza, tu conta che là ci mette la scheda del bip, no? Tu vedi la modifica dei canali, lì c'è una spesa, meno, c'è più di 50 euro, capito? Scippatore. Allora, io non so che dirti, allora, per scippatore, tutto come si deve vogliono 350 euro, allora, senza come si chiama dentro, senza doppio modulatore, senza coso, mi pare che la stessa prezzo lo fa Roberto, Roberto fa, mette la, come si chiama, la scheda eco dove è 120 canali, potente, quell'altro vale, mi pare prende 250 euro, o mi sbaglio, c'è una cosa del genere, è giusto? A me l'ultima volta 200 me l'ha preso, 200. Hai visto? Dipende da che lo vuoi fare il lavoro, hai capito? Se non c'è il doppio modulatore si può fare anche di meno, ecco. Ora se non abbia illuminato nulla, lui gli ha dato era il mio, aveva già tutto pronto, perché c'aveva già tutti i canali, tutto quanto. I canali ce l'ho segnati col puntino io, i canali di sopra c'è il puntino davanti, eccetera, eccetera. E quelli di sotto ce l'hanno dietro. E niente, mi ha messo la scheda, ecco, e... La scheda, ecco, il bip. Qua c'è, solo la mette la scheda, ecco. E poi lo cinturo sempre. Sì, ma la scheda, ecco, compresa di bip. Ma c'è, qua, dove, qua, in questo, nel mio. Ah, il bip ce l'ha. Però la scheda, ecco. Mi sa che è tutto uno, vero lui? Una scheda, ecco, l'altra scheda, bip a parte. Sì, sì, ma quando la mette tutta attaccata assieme, poi le costruisce lui le schede, le bip, le costruisce lui. Questo tipo avanti, chi è? Buonasera. Chi era sotto Luigi, avanti? Ma io ho sentito. Comunque, secondo voi qual è più bello, questo o Gianni? Questo di Sabattino o l'altro? Ah, per me sono questi due lui. Cioè, questa volta sono mediamente più forte. Chi questo? Via. Anche io quello. E io adesso va bene. Sono cambiato i cosi. Il mio frequenzimetro, adesso il frequenzimetro è a posto. L'ho fatto di verniciare, i coperchi. Volo fiammando. Lo so, ma meglio di quello c'è il samurai comunque. Se avessi avuto il samurai sarebbe stato molto ma molto meglio. Non lo so neanche cosa è questo samurai, io comunque questo, ripeto, questo è il 70 watt su, cambio e passo, puoi fare scendere a 2 watt, però cracchia la radio, mi vedi, guardami, adesso aumenta e sarà sui 40 watt così, o che croce, e ancora buono, se vado a passare di watt, vedi, inizia a essere tutta la radio. Già va bene, già va bene, ma funziona bene, solo che attaccare tutto curvato con un baracchino da genere scalda. Dio, ma hai fatto tutto esternamente dietro, capito? Sono cose che noi ancora non conosciamo, capisci? Pompo, qua dentro conosci il fattore di calore, ne metto un altro nuovo lineare all'interno, cambio, passo e vendo. Non è che sia un lineare, è una scheda che vi stavo che c'avevo voi, ti ricordi? Quella scheda lì è agganciato con il sotto dissipatore. Poi gli ha messo gli spessori, gli spessori, e così almeno la fretta. Io l'abbia messo, non lo so, però ho visto che c'è sta questa cosa qua e vai, io l'ho messo in cambio, mi sentiva in casino questa cosa. Andava per andare il cambio. Ho messo a posto anche l'altro lineare, quello a 220, non mi avevo messo a posto il cambio. Meglio così. E purtroppo abbiamo dovuto mandare dal maestro. Abbiamo messo i cambiati finali. Ne abbiamo messi due, altri due. Avanti Luca. E sto usando il Vox, punto, ora se mi senti. Sì, sono distante anche. Sì, già va bene. Già va bene. Pregate, fratelli, pregate. Cari fratelli e sorelle, brava, attenta, l'animaccia lunga, attenta, Claudia Schiffer, Saverio, che fine hai fatto, Saverio? Sì, Sanremo. No, il telefono senz'altro. Sta chiamando a Fabio Bu. Attenta, imarrata agricola. Ci uso per un trattore. Io ce la vuoi bene. Io già tu sono in Vazinga. Paroci. Oh, telefonata. cambiare l'orario. Non so quando è che non uso più i lineari. Da quando ho finito di affarmarmi con l'albero, già sa qualcosa Luca. Facciamo tremare anche i piselli lì. Alla città di Alghero io quando mettevo a pompare con il BV 2001 nell'MK3 a valvole. 700 watt e tondi tondi, non riuscivano a parlare tra loro. Figurati, per i tempi quelli erano. Mi mancano la verità, Facevamo il muro di Bollino, parlava solo carbonati e dintorni e buco. Dai, no, visto che sono tante altre cose, non è, ci vanno tante di quelle cose che tu non immagini, quando le fanno per quelle modifiche che fanno veramente, poi non ci vuole 1200, non ci vuole 1200 per coprire quel 750 lì, non basta il 1200, non basta, hai fatto tante cose, ci sono dentro, gli aggiungono di quelle cose, un po' di condensatori, ci aggiungono un'infinità di condensatori, c'è un po' di cose dentro. È così, già ci sono anche cose qua, non è che ci sia bisogno di, vabbè il camion va bene, il lineare ci vuole per forza, in casa cosa ne fai, non ne vai più nulla ormai. Una volta quando attaccavo con il lineare, ne veniva tutto avvicinato a rompere i malongrassi, quindi si facevano spedare per niente. Diciamo se qualcosa tu ti vuoi. In caso va bene, quando sei fuori, tanto di guadagnato, ma quando sei in città, niente che una cosa del genere, guai. Sì, questo io sto parlando del camion, io sto parlando 24 volte per il camion, capito? Di vedere 24 volte, no? Infatti. Cava. Vengo poi a tenere a casa, Antonio, di durare quella 24, già lo sai. Tra l'altro con l'alimentatore. Quell'alimentatore funziona. L'unica cosa brutta era bisogna che lo fai ben verniciare, bene. Il parabrezza che ci infili di dentro, si è fatto un bel idealone, mettete le basi, un bel 750, non pilota come nulla. Uno di quei lineari, già lo sai, che pompa anche un bel. Sì, no, io non l'ho fatto, quello che volevo fare, tu non lo fare, perché non mi si avvia, se non lo stava facendo quello per casa, l'altro gli ho detto di non farlo, perché non lo volevo, capito, no, che mi andava bene, non mi servivano tutti questi, questa potenza, no? E niente, comunque, niente, quella fare in ceramica, no, ceramica, quelle resistenze là, no, no, non ci vogliono, ha detto, quelle non ci vanno, mi ha detto, fate la porta, me le ha ridate indietro. Meglio così, allora. Per fare un commutatore d'antenna, un ingresso o quattro uscite. non so se è illuminato qualcosa, bisogna che controllo nel coso, nel mobile, dopo guardo se c'è, mi è rimasto qualche cosa, già te lo do, non ti preoccupare. Tu ci hai mai capito da tipo quello? Allora, quello l'abbiamo tolto noi dal quello mio che aveva quelle resistenze bruciate, è spanato, mi è la vita tua, è spanata, ti ricordi che avevamo tolto, l'ha messo spanato, è spanato, mi serve la promo 750 che ho io, per il camion. E ci abbiamo capito già. Se lo provo, non c'è problema, già te l'ho uno di quelli, non preoccupate. Buona lettura di cosa, ma se si metta di che chiama me, sta sventiare, intanto c'hanno 2 ampere, 7 ampere, quelli dei cattolini, vanno benissimo per il baracchino. Beh, solo che l'estetica è un po' così. Meglio niente. Lui oltre a voi mica deve parlare da casa sua, non è che deve parlare da qualche altro posto. Per uno che non lo pretese, va bene. Vabbè, quello sì. Pensate che funzioni, no? Già funziona, perché ne avevo io e funzionava benissimo. Che sia uguale. Oh, assolutamente no. quando si è sposato si vedono tutte si vede il carattere della persona, come si è trattato un conto, perché ci sei 2 o 3 ore a sera e non la conosci mai a fondo, invece quando ce l'hai in casa tutti i giorni, che ci sei tutti i giorni a fianco, le cose cambiano, e a voglia se cambiano. Ah, adesso tieni l'occhio sull'antenna, ma spesso l'antenna. Tieni l'occhio sullo smitter, guarda quanto ti sta arrivando bene. 9:30, tondo. Tu più di 9:30 non arrivi? Sì, hai ancora da riempire qua, fino a 60 arriva lo smitter. No, aspettati. Maurizio! Sì? A mai da Roma! Uguale. Ah, vero? Sì, forse perché siamo vicini, tu sei a quadrato così. Sì. Non cambia nulla, non già, lo sai, quando sei distante la cosa cambia, ma quando sei vicino, o puoi ripetere neanche dal centro di sbatto, non sai di tutto. Era l'antenna che sto cambiando, capito? Per vedere quale risonamento. Sì, io ho capito già, ma promette anche per dire, ho una mano attaccata alla macchina, non cambierebbe niente, sei tutto attaccato. Siamo gli anche. Capo Luca! Sì, la radio è chiara. Perché mi ha detto che l'altra antenna, quella che ho costruito io, me la fa più bella. Aspetta, siccome ho c'è un barattino senza antenna, fa un passaggio che ti controllo. Guarda, 1, 2, 3, prova. No, mettimi patate butta. Ah? Patate butta, metti. Adesso fa che con l'antenna mettimi l'altra e vediamo la differenza che c'è, se ci guadagno. Radio 5 per seccata bomba. Cava, la radio occhiali. Ulla. Sì, che chiama? Cavagava. Andare, vabbè. Diciamo che c'è la differenza, una è 75 centimetri e l'altra è 2 metri. Già c'è la differenza. Però con quell'antennino la porta d'ora si parla tranquillamente con Sassari. Faccio tutto il viaggio tranquillamente e mi sento. Sono arrivato al Ghero, quindi una bella sensazione ce l'ho, una piccola. Tra le città va benissimo. Sì che va bene. Ma voglia. Me la colgo subito se cambi, se fai l'opzione, perché c'ho il polo per tantella e lì c'è proprio la sbagliata. Lo uso anche per, a volte anche per essere configurazioni in più. Sono l'unica cosa che c'ho l'antenna verticale, se metto l'orizzontale la cosa cambia. Posso usarlo come monitor. Cioè un punto e qualche cosa, punto e mezzo, no, non metto punto, punto e mezzo. Se fai il paragone, una di 2 litri la testata a 5, fosse stata 2 litri, sarebbe, se fosse stata 2 litri sarebbe stata molto molto più potente questa qua. Se tu con attacchi con l'antenna ci metti un filo di Grand Prix lì dove sei adesso, vedrai che le cose cambiano con qualcosa di più, perché è un quattro d'onda. Questa qui praticamente ho preso le misure della Linux e ho fatto tipo Minox, capito? Già vende, già, non è che non venda, già vende abbastanza bene, non ti puoi lamentare, già va bene, è più corta e non ha nessun fastidio, invece quella lunga deve... Si vede troppo, vabbè già c'è la macchina lunga, tu quindi non è che sia tutto questo logo, è anche di cosa brutta per l'estetica. No, infatti, ci vede prima non te una buona macchina. Guarda che l'unico che ho visto che faccio, che esce con un po' furgone, con l'antenna lunga 2 metri e passa, è Vittorio. Io non so come faccio a entrare in galleria quello. 2 metri e passa. Ehi, non hai visto il furgone che c'è Vittorio Giove? Io l'unico che ho fatto, non mi sembra come uscirla con l'antenna lunga, mia. E 2 metri qualche cosa. Per la 27. No, non è per la 27. Faccia male, è troppo lunga quella, ma quello è pazzo. Se tu vai a vedere la mia mossa con l'antenna, boh, io non so come faccio a entrare in galleria. Beh, quella è la passione, se ne frega dell'estetica di tutto. Io ho la passione, molte volte ti guardano, ti criticheggiano, ti dicono, ma non me la fatti nulla. Cosa ti devono dire? L'antenna della 27 la lunghezza è quella, non è... forse è stata una frequenza diversa, è stata più corta. Non è quella, non possiamo farci niente. Antenna corta per la 27 non esiste, cioè più lunghe sì, ma corte come vedi. 75 centimetri quello che ho costruito io, Vabbè. Io ho visto anche da 50 centimetri di antenne, da 15 centimetri, c'era Giovanna, la sorella, c'era l'antenna per la macchina, per la 27, e lunga 15 centimetri, c'era attaccata alla quota davanti. Per il baracchino va bene, più di 15 watt non li puoi mettere, solo si incendia. A proposito, che fine ha fatto che non ho più sentito Giovanna? Si è paura, sì. lavorando in pizzeria, quindi non c'è tempo, se no già avrebbe attaccato al limite. Sempre lavorando, è stata lì a lavorare, quindi non c'è tempo. Quando c'è un po' di cose, i bambini sono più grandi, allora già si pianterebbe la fine a casa presto. Perché il maschio è dannaggio. Che ha pagato. Lavora lì a Ossi? Ah, di punti. Ah, è a Ossi, pizzeria. Che ha pagato. Hai detto che ha viaggiato di volo. Sanzo, di punti deve fare. Capi si cotto, Ah, io ho capito che era Ossi. Io pensavo che viaggiasse da Ossi. No, no, no. Se sei punti sono siccome altri di macchina. Sì, devo sapere i punti fa prima. Ma prima lui arrivare ai punti che io ho fatto della quale. Infatti. Quando c'hai il mezzo tuo ti disimpegni un bel. Non è che devi stare a aspettare i mesi, tutto quanto. Sì, lo so. Che mi hai detto di smettere? Stavo provando. Appaga il vento si è salita al quadrato. Il vento più vero, mamma mia. No, io sono andato alla macchina, ma quando i venti finiti sono chiusi, per cui sto troppo bene. Sono bello smappalazzato. E mi sto rilassando. Ci andava. Io lo so. Ma 200. E su quale canale? Su 21. Quando ho pensato l'antenna, volevo vedere che le chiese va via, ha detto, ma quanto bisogna picchiarlo, guarda. Mi è parlato poca cosa, gli ho detto ancora, ti ascolti, te ci metto per fare l'impianto, non per prendere le palle con lei. È bottiglia di plastica, ne avevo? Sì, lo era. Fa sempre che la bottiglia di plastica sono i campanili, tutti quanti, anche delle bottiglie, perché le porta alla Sisa e ci fa i punti, capito? Non sa cosa fare e va a elemosinare le bottiglie di plastica nel caso. Allora fa come l'amico mio padre, che va nelle campagne a fare un po' di frutta, tutti che si avvende se la porta a casa. Da poco l'ho trovato in campagna e era in stivali, cose del genere, quando mi ha visto il vado vaio. Mi dice scusa Antonè, mi sono, non ho potuto anche mettere le, un permesso per pigliare la roba, gli ho detto ma mi metto a me per pigliare quello che vuoi. E come ha pigliato la roba verde, gli ho detto non lo so che, ho detto se sentiti la frutta che verde per lo schifo. Stallata e c'avevo come radiale solo le 5 stazionali. Poi gli ho detto guarda, adesso che la madre si mi regalano una base di Guampei con tre stili, me li ha regalati, ho preso, ho fatto la regolazione, sono sceso in funzione a 1-1. E poi mi ha detto Luigi Boccano, dice, ti sentivo stamattina, diceva la macchina, non ha detto, dice, vai, e finirà. E non ci credo, dice, sì, arrivo di nuovo. Dice, ma io non ti sentivo per niente. E invece mi sta, rende antenna. Ed è anche bassa, me l'ha messo sotto il tetto, dove eravamo la prima, pompa un po' questa cosa. Tu mi dici una cosa, ma quale dove sono attaccati i radiali? È stato quello della Gran Play. Allora, il palo è quello normale, la base è della Gran Play. Ho preso gli stili della macchina, della lenna, l'ho spiccato da quella specie di occhiello che c'era. Allora ho preso e ho beccato lo stilo alla base della Gran Play, che sono precisi, la sua beccatura. Capito? È apposta. Sì, ma tra l'altro con la basetta stesso, anche con la basetta, c'era la basetta nella tubo. No, assolutamente, basetta non ne ho io. Quando lo usate, infatti mi mancava la basetta, c'era 1,5 di stazionale. Adesso c'ho 1,1 perché i radiali li ha dato messi all'angolatura a 35 gradi, ma l'ho fatto la caratura dello stazionale. Hai capito? Mezzo casino. Mezzo casino, non ci pompa bene. Adesso si pompa. Se li metto a 45 gradi, i radiali, l'antenna circolare, 3,5 di stazionale. Invece messi così, c'è 1,1, perfetto. Io pensavo che tu gli avessi fatto qualche modifica che avvitava dove c'era lo stilo centrale della Gran Play, capito? Pensavo così. Non riesco a capire come hai fatto ad attaccarla, è quello che non riesco a capirlo. Ho preso il moto di una antenna che c'è la fregatura al centro e quanti il moto da molto grande e molto piccolo, poi ho messo la zucca con un dado passante e ho avvitato lo stilo della 50. Ciao ragazzi. Ed è un bombo perfetto. Avanti Giuseppe, infatti se sotto caso si vedono le tette con bosca ragazzi. Deve essere sceso la macchina. Aspetta che vada pure il portone. Thank you. capito? Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ci sentiamo.